Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Vede signora, entrando in questa stanza, io sono stato colpito da tre cose. Troppe donne, il cadavere e l'orchidea. Alle donne e ai cadaveri ci sono abituato. All'orchidea un po' meno, anche se mi piacciono molto. Quello che avete sentito era Paolo Stoppa in uno sceneggiato TV andato in onda negli anni 70. Interpretava il personaggio del commissario De Vincenzi, commissario creato dalla penna di Augusto De Angelis negli anni 20. Non aveva avuto un grandissimo successo perché all'epoca lo scrittore subì sostanzialmente la censura fascista. Questo è un personaggio dalla grande sensibilità umana, è un personaggio appunto che riesce a risolvere i casi grazie la sua capacità di comprendere il prossimo e quello che vede intorno a sé. Questo personaggio è tornato a vivere grazie alla penna di Luca Crovi nel romanzo L'ultima canzone del Naviglio, pubblicato da Rizzoli. In realtà questo romanzo segue L'ombra del campione, in cui appunto era già comparso nuovamente il commissario De Vincenzi. Luca Crovi, prima di entrare proprio nella trama di questo tuo romanzo, perché uno scrittore decide di far rivivere un personaggio che è stato creato da un altro suo collega? E anche a distanza di così tanto tempo. È nato tutto dalla richiesta di raccontare il mondo del calcio. Siccome io non sono un tifoso, mi è capitato di andare a vedere un concerto di Springsteen e di leggere la scritta Stadio Meazza, e mi sono trovato a raccontare la vita di Pepin Meazza nell'Inter degli anni 30, con un giocatore che era giovanissimo e che non si poteva all'epoca nemmeno permettere l'uso delle scarpe. Siccome questa storia era ambientata in quel periodo, ho dovuto scegliere di trovare un investigatore idoneo per risolvere i casi che gli chiedeva questo giocatore. Questo succedeva però nell'ombra del campione, nel primo romanzo. Del campione. E quindi io mi sono trovato a dover trovare un personaggio che potevo usare. Siccome De Vincenzi è sicuramente l'autore, il personaggio di quel periodo che mi è piaciuto di più per la sua umanità, per la sua capacità di entrare in empatia con le persone povere, quelle più sfortunate, ma anche per la sua capacità di capire i criminali, ho deciso di recuperarlo. E recuperandolo ho mantenuto praticamente il canone che aveva costruito De Angelis, mantenendo sia le date che gli episodi principali della sua vita, che non si dovevano intersecare né in quello che ho raccontato nell'ombra del campione né quello che ho raccontato invece nell'ultima canzone del Naviglio. Ecco, c'è un po' di timore reverenziale quando si prende il personaggio di un altro scrittore che ormai è scomparso da tempo e si cerca di dare a lui una nuova voce, per quanto possibile simile a quella che già aveva. Sì, c'è sicuramente la paura di sbagliare, di farlo parlare magari in maniera sbagliata. In alcuni casi io ho utilizzato anche dei frammenti di battute o di dialoghi precedenti usati da De Vincenzi nelle storie che aveva vissuto, ma soprattutto ho utilizzato i giornali dell'epoca. E in particolare, siccome Augusto De Angelis non poteva parlare della situazione politica e sociale in cui viveva il suo commissario perché c'era la censura fascista, io invece mi sono permesso di poterla raccontare. E per essere anche più tranquillo in quello che raccontavo, ho deciso di inserire nelle storie un elemento familiare. Siccome si sa che De Vincenzi vive in via Massena, e praticamente la sua è una casa reale che è vicino alla casa di Gio Ponti ed è vicina a quella che è stata una sede dell'Ovra negli anni del fascismo, questa casa aveva sicuramente una portineria. Lo scrittore non ci descrive la portinaia, e io ho deciso che, siccome in quegli anni a Milano la portinaia la faceva la mia bisnonna, la Maria Matilde Mallerini, la mia bisnonna poteva essere la portinaia di De Vincenzi e quindi poteva guardarlo con un occhio personale che era quello della mia famiglia. Entrando con questo elemento sentimentale, ho potuto scrivere le storie in una maniera molto più chiara, diretta, e secondo me anche più commovente. Ecco, in questo tuo romanzo L'ultima canzone del Naviglio si intreccia appunto la storia con la S maiuscola alla storia e alle storie, ai casi di cui deve occuparsi il commissario De Vincenzi. Siamo appunto a Milano, l'abbiamo già capito, negli anni 20. Mentre nell'Ombra del Campione si parlava di Peppino Meazza, in questo caso si parla invece sempre di sport, perché parliamo dell'autodromo di Monza, che è in parte anche protagonista di questo romanzo, che sta a simboleggiare forse anche il progresso dell'Italia di quel periodo, progresso che vediamo anche nella toponomastica della città, perché quello è il periodo in cui si decide di interrare una parte dei Navigli, i Navigli della piccola cerchia, possiamo definirli così. Quindi questi sono due elementi decisamente presenti nel tuo romanzo. Sì, sono due elementi forti, perché io ho voluto spiegare come l'arrivo di tante macchine che all'epoca venivano prodotte dalla Fiat e dalla Alfa Romeo ha portato la città sostanzialmente a cambiare la sua circolazione. Dovendola cambiare sono stati chiusi i Navigli, e a proposito anche del racconto della gara all'autodromo che inaugura l'autodromo di Monza, quando ho scoperto che 7 uomini vestiti di nero avevano in qualche modo cambiato il risultato della gara, e quando ho scoperto che altri 7 uomini vestiti di nero sono entrati alla Scala disturbando Toscanini, che non voleva eseguire gli inni al Duce e al Re, ho pensato che quei 7 uomini in nero, che erano raccontati sulle pagine del Corriere della Sera a distanza di pochi mesi gli uni dagli altri, potessero essere gli stessi. Le cronache non lo raccontano, e allora ho seguito un filo nero dentro la storia, perché tutti i crimini che io racconto, tranne due che sono di fiction, sono in realtà presi dalle pagine dei giornali, non li ho inventati. Ecco, ad opporsi nei confronti di questi uomini neri, appunto gli uomini di Mussolini, del regime fascista, ci sono i malnati della Ligera, sono sostanzialmente i giovani della mala meneghina, che però all'epoca, durante il ventennio fascista, erano considerati un po' dei Robin Hood, cioè rubavano un po' ai ricchi per dare ai poveri, e comunque si opponevano al regime fascista. Che cosa hanno rappresentato nella storia di Milano questi malnat della Ligera? Hanno rappresentato una Milano che si opponeva al regime in maniera diretta, ma gli stessi malnati giovani esistevano anche a Cagliari, li racconta Emilio Russo nel suo racconto sulla marcia su Roma. Tenete presente che la malavita milanese subì il fatto di essere perseguita dal fascismo e vide distruggere il quartiere, in particolare quello del Bottonuto, dove viveva. Ovviamente i furti che facevano queste persone erano sempre al servizio di povera gente che aveva fame, che aveva bisogno di un aiuto, per cui questi Robin Hood nei quartieri erano ben visti, mentre era guardata male la nuova milizia che si inseriva nei quartieri e andava magari a chiedere il pizzo ai negozi per pagare la tessera del partito. Peccato che per quelle luminarie i soldi consegnati in realtà non portassero a una tessera reale, ma i soldi venissero intascati da alcuni gerarchi del fascismo. A proposito di antifascismo, tu ricordi anche l'episodio di un volo storico di un biplano sopra il Duomo di Milano, compiuto da Giovanni Bassanesi. Che cosa aveva fatto in quell'occasione? Praticamente aveva lanciato centinaia di manifesti su Piazza Duomo invitando i milanesi alla rivolta, e la scritta principale che c'era su questi manifesti era "Milanesi, smettete di fumare", che era la stessa scritta che si era adottata a Milano e si era diffusa quando bisognava non fumare per dimostrare a Radeschi che la città si voleva ribellare dal regime austriaco. Ovviamente questo aereo che passa su Milano non è un aereo invisibile, viene raccontato dal Corriere della Sera, ma viene raccontato anche dal Popolo d'Italia. Il povero Bassanesi finirà in Svizzera, dove viene catturato, ma il suo gesto anima la città e porta la città ancora per 4-5 anni a ribellarsi e a reagire alla situazione politica. Ovviamente i fascisti in piazza cercheranno di bruciare ed eliminare tutti i manifesti che lui ha lanciato con il suo aeroplanino, però molti di questi finiranno proprio in mano ai milanesi, che li porteranno poi per le vie della città. Ecco, dei noir, dei gialli non è che possiamo poi raccontare tantissimo, però possiamo dire che in questo caso il commissario Carlo De Vincenzi deve occuparsi di due omicidi. È stato ritrovato il corpo di una donna davanti alla cosiddetta colonna del diavolo vicino alla chiesa di Sant'Ambrogio, e poi c'è anche la morte misteriosa di un barcaiolo che stava navigando appunto sul naviglio, stava portando l'ultimo carico di carta. Ecco, in che modo il commissario De Vincenzi approccia questi due casi? All'inizio dicevo che questo personaggio è caratterizzato da una grande umanità che mantiene naturalmente anche nel tuo romanzo. Allora, sono due morti inventati, sono le uniche due morti inventate che ci sono dentro nel libro, ma che mi servono a raccontare il fatto che Milano nel 1929 venne coperta totalmente dalla neve, visse il generale inverno e nello stesso anno vide la chiusura dei navigli. L'approccio rispetto ai due morti è di diversa sensibilità, perché davanti a questa donna che sembra una bella addormentata, De Vincenzi è molto turbato, perché poi ne vede il cadavere all'obitorio e si trova a descriverla come se fosse una fanciulla ingenua all'inizio. È peccato che di questa donna lui se ne è già occupato in un'indagine di qualche anno precedente, e questo lo collegherà all'indagine che svolgerà. Per quanto riguarda il barcaiolo che sembra essere caduto accidentalmente dentro al naviglio, anche lì la richiesta di risolvere il caso gli arriva proprio direttamente dalla Ligera, che in quel momento non crede possibile che uno dei loro sia caduto in quel modo durante un trasporto di carta, e che anzi vede che ci sia qualcosa di diverso. Queste due morti servono nel libro a collegare poi tutta una serie di eventi storici con protagonisti reali, e la chiusura poi dell'indagine anch'essa è presa da un dato di cronaca veramente accaduto. Grazie allora a Luca Crovi, ora in libreria con L'ultima canzone del naviglio, pubblicato da Rizzoli nella collana Nero Rizzoli. Luca Crovi, che ritroveremo, ve lo dico subito, in una puntata speciale del Cacciatore di Libri, in onda sia sabato che domenica, sabato 1 agosto e domenica 2 agosto. Allora, il sabato in onda alle 6 alle 16 e la domenica alle 11, perché durante tutto il mese di agosto vi terremo compagnia come sempre con delle puntate monotematiche. La prima appunto è dedicata a Passione Crime, quindi l'ospite del nostro caffè letterario sarà appunto Luca Crovi con i suoi consigli. Grazie Luca. Grazie a tutti e buona lettura. L'appuntamento breve con il Cacciatore di Libri rimane sempre invece dal martedì al venerdì alle 13:45. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.